Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Devo dire che lo sport per me è sempre stata la mia vita, la mia grande passione. La mia carriera è stata fatta di alti e bassi, ma non solo sportivamente parlando. Quindi quello che vorrei portare a Rio, la voglia di combattere, qualsiasi cosa succeda nella vita o nello sport, ma la voglia di combattere, non arrendersi mai, qualsiasi cosa succeda. Questa è stata la felicità e la dichiarazione entusiasta, orgogliosa naturalmente, di Federica Pellegrini, che è ufficiale, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sarà la portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Rio. Mi sembra, con tutti i suoi riconoscimenti, medaglie, super premi, eccetera, un atto dovuto, insomma, era inevitabile. Anche, tra l'altro, è una delle sportive, tra gli sportivi italiani più amati al mondo, più conosciuti a livello internazionale. Bene, quindi complimenti a Federica Pellegrini. E noi ci occuperemo però di altro, oltre che di sport naturalmente, perché c'è anche la semifinale di Champions League. Parleremo di molte altre cose, anche molto serie. E, per esempio, ci collegheremo con il Brennero, con il nostro collega che ha seguito la presentazione oggi da parte dell'Austria delle misure decise dal governo austriaco anti-immigrati. Si parlava prima di un muro, poi di una barriera, adesso lo definiscono un reticolato. Qualcun altro dice che al momento non è stato costruito nulla, ma che comunque ci saranno dei controlli al confine che sono stati richiesti anche all'Italia. Diciamo che c'è un po' di tensione tra Italia e Austria in questo momento, e non solo, perché anche l'Unione Europea è intervenuta almeno a parole. Poi ne parleremo, cercheremo di capire un po' meglio nel dettaglio di cosa si tratta. Ci occuperemo anche di Salah Abdeslam. L'unico attentatore che è sopravvissuto agli attentati di Parigi è stato estradato oggi dal Belgio, dove era stato arrestato, in Francia. Ma doveva esserci oggi il primo interrogatorio. Lui ha detto di essere stanco e quindi il giudice ha accolto questa sua stanchezza, questo suo stato di disagio, e ha rimandato a metà maggio, anche più in là, insomma, questo interrogatorio. Ci collegheremo con Parigi per sapere qualcosa di più, anche perché è stato rinchiuso nel carcere di massima sicurezza più grande d'Europa, anche se ha a disposizione un certo spazio, può fare ginnastica, la TV, il bagno, cioè, insomma, trattato per ora con tutti i crismi. E poi parleremo anche delle presidenziali americane, perché nell'ultimo Super Martedì, quello che è stato ieri, insomma, nella nostra notte, Trump e Clinton hanno, diciamo, trionfato, quindi manca un po' il passaggio decisivo in California, ma poi possiamo dire che sono ufficialmente i candidati, uno repubblicano e l'altra democratica, per la Casa Bianca. Ma quello di cui vorrei parlare stasera con un esperto di politica americana è: davvero Trump potrebbe essere il presidente degli Stati Uniti? Davvero si può prospettare questo scenario? Voi lo vedreste positivamente? Ritenereste che effettivamente Trump possa arrivare alla Casa Bianca? E quali potrebbero essere, secondo voi, le conseguenze, sia positive sia negative? Perché è un trionfo che neanche i repubblicani stessi si aspettavano. Quindi vi ricordo, per intervenire, due canali privilegiati che avete. Sono il 349-238-6666, che è il numero per i messaggi, per i WhatsApp, 349-238-6666, oppure comodamente, come sempre, la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Poi molti altri argomenti, ma intanto vi sintetizzo quelli che sono i fatti principali della giornata. Immigrazione: l'Austria annuncia il piano antimigrati al Brennero e vuole controlli anche in Italia. Domani vertice tra i ministri degli interni, ma l'Italia accusa Vienna di violare le regole europee. Grecia: tornano le tensioni sul debito greco, no di Berlino al vertice straordinario chiesto da Atene. Primarie americane: nell'ultimo Super Martedì trionfano Hillary Clinton e Donald Trump, che attacca l'avversaria democratica e assicura che con lui l'ISIS scomparirà. Salah è stradato in Francia, primo interrogatorio rimandato per l'attentatore di Parigi perché è stanco, il suo avvocato dice all'intelligenza di un posacenere vuoto. Rai: canone in bolletta, via libera del Consiglio di Stato, ma intanto scoppia il caso corruzione, il GIP di Roma sospende alcuni funzionari. Allarme del Consiglio d'Europa: nel vecchio continente si è assistito a un deterioramento della libertà di stampa ed espressione, dell'efficienza, imparzialità e indipendenza della giustizia. Sport: ufficiale Federica Pellegrini sarà la portabandiera italiana alle Olimpiadi di Rio. E per il calcio, questa sera seconda semifinale di Champions League fra Atletico Madrid e Bayern Monaco. Partiamo quindi dalle misure anti-immigrati che sta prendendo l'Austria al confine con l'Italia, misure che ha presentato oggi con una conferenza stampa, ha chiesto anche una maggiore collaborazione all'Italia. Per il momento le restrizioni e anche l'eventuale costruzione di una barriera sono congelate in attesa di un vertice fra i ministri degli interni di Italia e Austria che è previsto per domani, poi come vi dicevo ne parleremo tra poco. Intanto, con soli 4 voti contrari, sempre il Parlamento austriaco ha approvato la legge che inasprisce il diritto d'asilo. E a proposito di immigrazione, il ministro Alfano ha incontrato il commissario europeo per la migrazione Avramopoulos a Catania per l'inaugurazione della sede della Task Force regionale europea per la gestione dei migranti. Tutto il governo accusa Vienna. Un'accelerazione quella di Vienna che Palazzo Chigi boccia con forza. L'ipotesi di chiudere il Brennero, spiega il presidente del Consiglio Renzi, è sfacciatamente contro le regole europee, oltre che contro la storia, contro la logica e contro il futuro. Confidiamo che l'Austria non prenderà decisioni unilaterali nei prossimi mesi, aggiunge il ministro degli esteri Gentiloni, e che continui a collaborare strettamente con noi nella crisi dei profughi. Crisi che, è convinzione del governo italiano, va risolta a Bruxelles, così il ministro dell'interno Alfano. O l'Europa prende delle decisioni che siano concrete e realizzabili su alcune questioni, oppure l'Europa ha di fronte a sé una prospettiva molto cupa e molto triste. Alfano vedrà domani a Roma l'omologo austriaco, oggi incontro invece a Catania con il commissario europeo Avramopoulos. Gli arrivi dalla Libia in primo piano. Stiamo studiando con l'Unione Europea, annuncia Alfano, come attivare hotspot in mare, già sulle navi dunque, durante i soccorsi. La stretta di Vienna al Brennero preoccupa intanto gran parte delle forze politiche. Non è la strada giusta, dice la presidente della Camera Boldrini. Quella frontiera lì ha visto tanto sangue, tanti scontri, e quindi oggi pensare di ripristinarla fa male veramente alla nostra storia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ritornano le tensioni sul debito pubblico della Grecia. La borsa di Atene torna appunto nell'occhio del ciclone dopo il rinvio dell'Eurogruppo che doveva discutere degli aiuti alla Grecia. L'indice della borsa lascia sul terreno il 2,5% ad accusare il colpo soprattutto i titoli bancari. Torna a montare la tensione sulla Grecia, neppure 10 mesi dalle maratone negoziali a Bruxelles per evitarne l'uscita dall'Eurozona. Tutto nasce dalla richiesta del premier ellenico Tsipras di convocare un vertice straordinario dei leader dell'Eurozona per sbloccare il negoziato sul programma di aiuti per Atene. Tsipras mira a ottenere un intervento sulla montagna del debito pubblico ellenico che lo renda sostenibile. Questo dopo l'annullamento dell'Eurogruppo straordinario previsto domani, che avrebbe dovuto discutere la situazione del programma di salvataggio. A stretto giro di posta, sia il ministro delle finanze tedesco Schäuble sia il presidente europeo Tusk respingono al mittente la proposta. Prima serve una discussione in sede di Eurogruppo, precisa Tusk. Più tardi, Atene alza ancora la voce, questa volta contro l'FMI. L'economia ellenica ha fatto meglio delle previsioni, il governo ha registrato un avanzo primario record dello 0,7%, rivendica la portavoce Gero Vasili, attaccando Washington. Il fondo fa richieste che minano gli sforzi tanto del governo greco quanto delle istituzioni europee, quando rifiuta di accettare l'istituzionalizzazione di un meccanismo di correzione finanziaria, dice. Per Atene l'FMI chiede insomma cose che esulano dall'accordo dello scorso luglio, in numeri altri 3 miliardi e mezzo di austerità aggiuntiva che Tsipras non intende concedere. Ora l'obiettivo è riconvocare un nuovo Eurogruppo nei prossimi giorni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto del comando terroristico che ha attaccato Parigi il 13 novembre, che era stato arrestato a Bruxelles. È stato estradato oggi in Francia ed è stato incriminato dalla giustizia francese per assassinio di stampo terroristico. Come dicevo prima, doveva essere interrogato oggi, ma ha detto di essere stanco e l'interrogatorio è stato quindi rinviato a maggio. Poi ci collegheremo con Parigi. E siamo alle primarie americane. Nell'ultimo super martedì trionfano Hillary Clinton e Donald Trump, che attacca l'avversaria democratica dicendo: se fosse stata un uomo non avrebbe preso più del 5%, di solito il contrario, dice così, assicura che con lui l'ISIS scomparirà. E se Trump fosse davvero proiettato verso la Casa Bianca, vi chiedo stasera, del perché di questo successo e dei possibili scenari in caso della sua vittoria ne parleremo più tardi qui Effetto Notte con un esperto di politica americana, ma chiedo anche a voi se ritenete che sia, che effettivamente siete favorevoli a una conquista da parte di Trump della Casa Bianca, e secondo voi quali scenari si potrebbero prospettare in questo senso, sia positivi o negativi a seconda di come la pensiate. Ora invece, mentre voi riflettete, pagina Facebook di Effetto Notte e il numero 349 238 6666, passiamo alla politica italiana. Le divisioni sui candidati a Roma agitano le acque nel centrodestra e rischiano di avere ripercussioni anche a livello nazionale. Il leghista Salvini oggi se la prende con Silvio Berlusconi, non contrasta Renzi perché teme una legge sui diritti TV nel calcio che penalizzi Mediaset, e ne è prova anche la scelta di un candidato come Bertolaso che non ha possibilità di vincere, attacca il leader del Carroccio a 24 Mattino. Ci sono alcune centinaia di milioni di euro in ballo che riguardano Mediaset. Ora è chiaro ed evidente e naturale che oltre al politico c'è anche l'uomo d'azienda e il papà che vuole lasciare ai figli aziende assolutamente sane e rigogliose. Sono Salvini e Meloni che dopo avermi mollato stanno facendo un favore a Renzi, replica Bertolaso, che sul Corriere.it si dice disposto ad un accordo con Marchini ma anche a fare l'assessore di Raggi o Giachetti. Potrei sicuramente dare il mio modestissimo contributo, certo, se me lo chiedono, per affrontare alcune questioni di carattere tecnico. Giachetti era il capo del gabinetto di Rutelli quando io ero il commissario per il Giubileo del 2000, quindi li conosciamo molto bene. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora le critiche destinate al PD. Da più parti si richiama la questione morale dopo l'inchiesta che vede accusato di concorso esterno in associazione camorristica uno dei dirigenti locali del partito in Campania. Incontri preelettorali documentati, forse anche fotografie, quelli tra Stefano Graziano, presidente autosospeso del PD Campania, e l'imprenditore Alessandro Zagaria, considerato appartenente al clan dei Casalesi. Anche questo c'è alla base dell'indagine che vede accusato di concorso esterno in associazione camorristica Graziano, un caso giudiziario su cui si innesta l'ennesima bufera politica in casa PD che investe direttamente il segretario Renzi. Antonio Bassolino pone la questione morale e richiama il premier. Da segretario dice intervenga prima che il PD precipiti in un burrone politico e morale. E di sanzione morale e politica parla anche il vicepresidente della Camera, esponente del Movimento 5 Stelle, Di Maio, sottolineando che questo ennesimo scandalo rappresenta la normalità per il Partito Democratico. Duro l'affondo contro Renzi del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. La sua rottamazione, dice, non è mai iniziata, anzi. Difende dell'operato di Graziano il presidente della regione Campania De Luca, che ricorda il principio per cui fino a sentenza definitiva chiunque è innocente. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E Giancarlo Galan non è più deputato. L'Aula della Camera ha approvato la relazione della Giunta delle elezioni di Montecitorio che ne decide la decadenza da seggio di Montecitorio sulla base della legge Severino. Galan, ex parlamentare di Forza Italia, ex ministro del governo Berlusconi ed ex presidente della regione Veneto, decade appunto per la legge Severino, aveva patteggiato una condanna per corruzione nel processo per gli appalti del Mose a Venezia. Poi c'è un'altra notizia, che è questa, che riguarda Massimo Tartaglia. Vi ricordate l'uomo che nel 2009 colpì il presidente del Consiglio, allora presidente del Consiglio Berlusconi, con una statuetta raffigurante il Duomo di Milano? Beh, è tornato libero perché non è più pericoloso. E siamo all'estero con questa denuncia di Amnesty International che riguarda la Burkina Faso. Nel rapporto intitolato Costrette e impedite, i matrimoni forzati e gli ostacoli alla contraccezione in Burkina Faso, Amnesty International ha denunciato che i matrimoni forzati e precoci stanno derubando migliaia di bambine nel paese africano, anche di soli 13 anni, dalla loro infanzia e che gli elevati costi dei contraccettivi e ulteriori barriere impediscono loro di decidere se e quando avere figli. Rai, l'amministrazione ha accolto tutte le proposte avanzate sulla riforma del pagamento del canone Rai, che quindi con la legge stabilità 2016 il canone Rai è stato ridotto a 100 euro dai 113,50 euro precedenti. La tassa non sarà più pagata col bollettino postale, ma verrà quindi addebitata nella bolletta elettrica. La normativa ha introdotto la presunzione di detenzione dell'apparecchio TV nel caso in cui esista un'utenza elettrica nel luogo in cui una persona risiede. C'è però una domanda di esenzione. Per evitare l'addebito, i titolari di un'utenza elettrica possono dichiarare che nell'abitazione non è presente un apparecchio TV, presentando una dichiarazione sostitutiva tramite il modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Quindi alla fine questa cosa è passata. Allarme del Consiglio d'Europa, il continente europeo è in una situazione molto pericolosa. Negli ultimi 3 anni si è assistito in Europa a un deterioramento della libertà di stampa ed espressione ed efficienza e imparzialità e indipendenza della giustizia. A lanciare questo allarme il segretario generale del Consiglio d'Europa, Jagland, nel suo terzo rapporto sullo stato della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto, che fotografa la situazione in 47 stati membri. Cinema, dove sono le registe donne? Se negli Stati Uniti la battaglia per l'uguaglianza è in campo da tempo, in Europa se ne parla ancora poco. I dati diffusi oggi nel report sul gender equality nel cinema, fonte European Women's Audiovisual Network, sono disastrosi. Solo un film su cinque in Europa è diretto dalle donne, nei principali paesi europei e anche in Italia. In Italia il gap, addirittura questo divario, è anche maggiore. E direi a questo punto di chiudere con lo sport. Mancava solo l'annuncio ufficiale del Palazzo del CONI, è arrivata puntuale, l'avete sentita all'inizio, la voce felice di Federica Pellegrini, che sarà la portabandiera dell'Italia Olimpica a Rio il prossimo 5 agosto, proprio nel giorno in cui compie 28 anni. E intanto c'è anche la partita di semifinale di Champions League, c'è Dario Ricci che ci aggiorna. Dario, come sta andando? Eccoci Roberta. Atletico Madrid Bayern Monaco, questa è la gara d'andata della seconda semifinale di Champions. Siamo al 32esimo del primo tempo, spagnoli in vantaggio grazie alla rete di Saul all'11esimo, bel gol, incursione in area e poi un preciso sinistro a battere Neuer che pochi istanti fa ha ribattuto in calcio d'angolo miracolosamente una conclusione di Griezmann che è andato vicino al raddoppio. Quindi quando siamo al 32esimo di gioco, Atletico Madrid in vantaggio sul Bayern Monaco per 1-0. Grazie Dario Ricci, e poi naturalmente ci aggiorniamo con Dario. Intanto stavo guardando i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al numero 349-238-6666. La domanda che vi pongo questa sera, anche perché poi ne parleremo, è Trump, per quanto riguarda le primarie americane in corsa per la Casa Bianca, le presidenziali ci saranno a novembre, insomma sta passando di successo in successo e diciamo ormai è praticamente il presunto candidato, insomma praticamente il candidato ufficiale repubblicano per la Casa Bianca. Voi ritenete che possa effettivamente conquistare, arrivare alla Casa Bianca, che abbia delle ottime chance rispetto a Hillary Clinton, e nel caso avvenisse ritenete che ci siano delle conseguenze positive o negative, insomma quali scenari secondo voi si prospettano? Adesso sto guardando anche i WhatsApp che arrivano piccoli piccoli. Allora dice: buonasera, dice Antonio da Vicenza, credo che sia meglio un Trump eletto dal popolo che un Napolitano o un Mattarella eletto da politici anche loro mai scelti, e qui cominciano a essere i paragoni con l'Italia. Poi invece Trump è il Berlusconi a stelle e strisce, fuori dagli schemi, soldi a palate e volgarità, no grazie, il mondo ha bisogno che alla guida della superpotenza americana ci sia una persona equilibrata. Continuate con i vostri messaggi, con le vostre riflessioni sulla possibile vittoria di Trump alla Casa Bianca e anche sugli eventuali scenari. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, sempre voi in ascolto, man mano si aggiungono naturalmente milioni e milioni di ascoltatori tutte le sere qui a Effetto Notte, con i vostri messaggi anche, potete interagire sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia col numero 349-238-6666, che è quello per i WhatsApp e per gli SMS. La domanda che vi pongo questa sera, sulla quale potete esprimere le vostre opinioni e riflessioni, è: il candidato dei repubblicani Trump ormai diciamo potrebbe diventare quello ufficiale, gli manca soltanto la California, ma insomma già potrebbe essere designato a questo punto, al di là della volontà anche del Partito Repubblicano. Che ne pensate di questo suo successo e ritenete che possa davvero conquistare la Casa Bianca e quindi vincere contro l'avversaria Hillary Clinton, e quali scenari si potrebbero prospettare se Donald Trump diventasse il presidente degli Stati Uniti? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Dice Nino: in ogni caso il neopresidente americano sarà o la prima donna eletta o il primo idiota eletto, così la pensa Nino. Poi Trump e Berlusconi, a questo l'avevo letto prima, questo è Marco da Vignola invece. Trump, presidente americano, porterà immense sorprese al mondo e potrebbe usare l'intera potenza militare americana se ce ne fosse bisogno. Così ha annunciato, infatti, devo dire, poi ne parleremo. E invece Cristiano scrive: non vincerà Trump, ma è lo specchio di una destra sempre più orrenda e impresentabile. Gilles dice: sarebbe la volta buona se vincesse per qualche guerra fine del mondo, il criminale di guerra Bush e gli altri potrebbero cominciare a sembrare dei bonaccioni, l'industria bellica americana sarebbe molto grata. Continuate con le vostre riflessioni, adesso cominciamo ad affrontare man mano i vari argomenti, vi ricordo però le notizie principali della giornata. Vienna vuole controlli anche da parte dell'Italia per quanto riguarda le misure che sta prendendo al Brennero. C'è l'altolà di Renzi. Intanto però Vienna, il Parlamento di Vienna, ha inasprito le leggi sulla richiesta di asilo. Ne parleremo tra poco. Prescrizione, il governo cerca l'intesa, il ministro Orlando è ottimista. Le toghe intanto in trincea con Davigo, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che dice sì al dialogo ma no agli insulti. Intanto c'è un altro no, quello di Berlino, il vertice straordinario chiesto dalla Grecia per parlare degli aiuti rispetto al proprio debito pubblico. E poi Matteo Salvini, leader della Lega, che rincalza e dice Renzi ricatta Berlusconi attraverso le sue aziende. In Francia è estradato Salah Abdeslam, l'attentatore di Parigi, l'unico sopravvissuto, fa sapere che vuole parlare, però è stanco, quindi oggi non è stato interrogato. Il suo avvocato dice all'intelligenza di un posacenere vuoto. Canone Rai in bolletta, ormai è ufficiale, c'è il via libera del Consiglio di Stato. E Trump che vince in 5 stati, Hillary vince in 4 e va anche lei verso la nomination. Il tycoon, il miliardario americano senza rivali, ma arriva la tegola di un processo, anche di questo parleremo dopo. Adesso invece parliamo con Andrea Ferro. Ciao Andrea. Buonasera dal Brennero. Oggi ha seguito la presentazione ufficiale di questo reticolato, di questo posizionamento di piloni, non si capisce, costruito dall'Austria al Brennero al confine con l'Italia. Non so se sei arrivato con la slitta lì, Andrea, perché ho visto che c'era la neve. No, col camion, io col rigorosamente col camion, ecco. Beh, autotrasporti. Giustamente, rigorosamente col camion. Di questo ti occupi con la tua rubrica. Quindi parliamo della crisi dei migranti, nel giorno in cui l'Austria ha illustrato come aveva annunciato i giorni scorsi nel dettaglio le modalità di controllo, dei controlli che farà al confine con il Brennero. Dovrebbero partire da fine maggio, se non sbaglio, e intanto il leader della destra, trionfatore del primo turno delle presidenziali, Hofer, ha detto che questi controlli sono inevitabili. Il ministro italiano Gentiloni, in un'intervista al quotidiano austriaco Die Presse, ha detto: confidiamo che Vienna non prenderà decisioni unilaterali nei prossimi mesi e che l'Austria continuerà a collaborare strettamente con noi nella crisi dei profughi. E molte parole di biasimo da tutto il governo, da vari esponenti politici, dalle istituzioni italiane. Sentiamo per esempio la presidente della Camera Boldrini. Non è questa la strada per gestire un fenomeno come quello dei rifugiati, perché questa è la strada che divide, questa è la resa dell'Unione Europea, è alzare bandiera bianca, e io mi auguro veramente che quanto prima si possa trovare una soluzione, che l'Austria riconsideri questa decisione, che peraltro al momento sembra assolutamente infondata, visto che non ci sono numeri e non ci sono motivi per cui si debba procedere a questa barriera che hanno intenzione di costruire. Questo la presidente Boldrini ha detto, e poi c'è anche il ministro dell'Interno Alfano. Abbiamo da fare i conti con la storia europea e abbiamo la necessità di considerare che l'Europa è ad un bivio decisivo. O l'Europa prende delle decisioni che siano concrete e realizzabili su alcune questioni, oppure l'Europa ha di fronte a sé una prospettiva molto cupa e molto triste. Renzi stesso ieri aveva detto: non ci sono elementi che giustifichino una chiusura da parte dell'Austria, se dovesse farlo deve intervenire l'Unione Europea. Oggi è intervenuta, diciamo, a parole almeno attraverso il commissario europeo per la migrazione Avramopoulos, che ha detto: invece di erigere muri dovremmo costruire dei ponti, e comunque quello che sta avvenendo tra Austria e Italia deve essere spiegato e chiarito da Vienna. Andrea Ferro, intanto chiaricici tu cosa hai visto oggi, che cosa è stato detto in questa conferenza stampa al Brennero. Ma sostanzialmente è stato l'ennesimo ultimatum, almeno così è stato letto da parte mia, ma anche da parte dei colleghi che hanno assistito a questa conferenza stampa. Dicevo, l'ennesimo ultimatum da parte dell'Austria, che sostanzialmente dice: noi non vogliamo erigere alcuna barriera, spetta all'Italia fare in modo che questa folla di migranti attesa a partire dalle prossime settimane venga fermata prima del Brexit. Se l'Italia non è in grado di farlo e non accetta neppure il nostro aiuto di collaborare appunto con forze di polizia già sul territorio italiano, beh, allora a quel punto saremo costretti a tirare su questo reticolato. Non vogliono che si chiami barriera, ma reticolato, io francamente non riesco a trovare la differenza. 370 metri, sì. Che sarà praticamente sulla conca, e quindi non, diciamo, nella parte in cui insistono le infrastrutture, la ferrovia, le strade, e che avrà un'altezza variabile, al massimo toccherà i 4 4 metri e che appunto scatterà non appena sostanzialmente l'Austria riterrà di non essere in grado di controllare il flusso dei migranti. Per renderti l'idea dell'ultimatum, loro ha detto dai prossimi giorni, forse già da domani, metteremo le fondamenta, poi vediamo un po' come va a finire la faccenda e quindi decideremo di passare, diciamo, alla fase operativa. Il piano che è stato presentato è tutta una situazione anche un po' particolare all'interno di un autogrill, il primo dopo il valico del Brennero, con la neve che non cadeva alla fine di aprile da 30 anni da queste parti, sì. Mi raccontavano. Emblematico questo. Diciamo sono coincidenze strane, perché oggi si poteva, diciamo così, in qualche modo abbozzare la scrittura di una pagina di storia, perché quello che hanno detto gli 6 ufficiali della polizia austriaca chiaramente costituisce un potenziale passo indietro nella storia. Hanno detto in sostanza che le auto e i tir procederanno all'incorrispondenza dell'arrivo del valico a 30 km orari. I tir saranno deviati sulla destra, per intenderci, dopo l'ultimo tunnel sostanzialmente c'è una divaricazione. Una volta che passeranno alla velocità di 30 km orari saranno guardati a vista, controllati a vista, e poi i tir sospetti, mi sfugge diciamo così il motivo che indurrà la polizia a stabilire che un tir è sospetto rispetto ad un altro, saranno incanalati a loro volta all'interno di una piazzola dove saranno passati al vaglio dello scanner termico. Anche le auto saranno controllate a campione, molto probabilmente, perché poi quando si parla di sospetti in realtà poi si tratta di controlli a campione. Chiaro. Per quanto riguarda la ferrovia, la questione è più delicata, Roberta, perché qui lungo i binari, più precisamente alla stazione di Fortezza, gli austriaci vorrebbero praticamente coordinare le operazioni di controllo, quantomeno affiancare a pieno titolo gli agenti italiani, sì. Perché ritengono che una fetta significativa dei migranti attesi viaggerà in treno. Se l'Italia non darà questa possibilità, c'è di mezzo una questione di diritto internazionale, beh, allora loro faranno chiaramente transitare i treni, passare il confine, e poi hanno già in mente, ormai il piano anche prevede anche questa parte, erigeranno praticamente una stazione temporanea. A quel punto tutti i convogli in transito tra l'Italia e l'Austria saranno fermati e ogni passeggero sarà controllato in territorio austriaco. Chiaramente Andrea ci sarà Ferro. La paralisi. Comunque domani c'è questo incontro tra il ministro Alfano, il ministro dell'interno nostro, e l'omologo austriaco a Roma, e vedremo un po' che reazioni ci saranno e se si arriva a una mediazione. Per il momento ti ringrazio e ti saluto, Andrea Ferro dal Brennero. Ciao Andrea. Ciao Roberta, buona serata agli ascoltatori. Ora invece parliamo di altre misure di sicurezza, che sono quelle che sono state prese in Francia per Salah Abdeslam, che è stato incriminato ufficialmente per terrorismo. Sapete, l'unico attentatore che è sopravvissuto agli attacchi di Parigi tra i vari terroristi islamici, ed è stato estradato dal Belgio, dove è stato arrestato dopo mesi di ricerche, arrestato e mandato oggi in Francia. Ne parliamo con Marco Musseret del Sole 24 Ore da Parigi. Ciao Marco. Buonasera. Allora, so che doveva esserci il primo interrogatorio oggi, però lui pare che abbia detto di essere stanco, e quando uno è stanco è stanco del resto, e quindi il giudice ha rimandato oltre metà maggio. Tra l'altro il suo legale, il suo avvocato ha detto di lui, non so se è un modo per giustificarlo, ha detto all'intelligenza di un posacenere vuoto, non è molto lusinghiero, ma non so se sia per trovare poi delle giustificazioni a qualcosa. Comunque Marco, è nel più grande carcere d'Europa, mi sembra, a questo punto. Sì, è nel carcere, in una cella di massima sicurezza, nel carcere di Fleury-Mérogis, a una trentina di chilometri a sud di Parigi, dove è stato portato questa mattina da una squadra del GIGN, che è l'unità d'élite della gendarmeria francese, corrispondente dei nostri carabinieri, che l'hanno prelevato appunto dalla prigione di Beveren nel nord del Belgio, l'hanno portato a Fleury-Mérogis, passando comunque da Parigi, dalla procura di Parigi, dove i magistrati gli hanno notificato l'incriminazione per una lunga serie di capi d'accusa, primo tra questi ovviamente quello di omicidi con finalità terroristica. L'interrogatorio, sì, si era parlato di un possibile primo interrogatorio oggi, in realtà sembrava abbastanza improbabile che nella stessa giornata del trasferimento si procedesse già a un interrogatorio. È stato fissato per il 20 maggio e c'è ovviamente molta attesa per questo interrogatorio, perché se probabilmente o forse Abdeslam non è uno degli organizzatori degli attentati del 13 novembre a Parigi, e se vogliamo prestare un po' di credibilità alle dichiarazioni del suo ormai ex, peraltro, avvocato belga, che appunto lo ha definito sostanzialmente un cerebro leso e non in grado di organizzare alcunché, non c'è alcun dubbio che invece di cose da raccontare Abdeslam ne ha sicuramente molte, di informazioni ne possiede molte, perché anche se non è stato forse uno degli organizzatori, era molto vicino, amico da sempre e peraltro complice di rapine a suo tempo, che ha trascorso un periodo in carcere, di Abaoud, che invece è ritenuto effettivamente la mente degli attentati, è stato ucciso a Saint-Denis, amico di Mohamed Abrini, che è il terzo uomo dell'attentato dell'aeroporto di Bruxelles. Abdeslam ha noleggiato due delle auto utilizzate il 13 novembre, ha affittato appartamenti usati come covi dei terroristi, ha acquistato esplosivi, ha portato allo Stade de France i tre kamikaze, nei mesi precedenti agli attentati ha girato in mezza Europa, dalla Grecia all'Austria all'Ungheria, andando a recuperare membri delle future squadre della morte dell'ISIS, quindi di cose ne deve sapere ne sa, forza. Insomma, sicuramente quindi, regista di un certo livello, e poi ha girato anche molto comodamente e liberamente, come poi si è capito anche lì in Belgio, dove era Molenbeek da chissà quanto. Marco Mussanè, so che in 11 metri quadri con un bagno e TV che è sorvegliato 24 ore su 24 dalle telecamere, sia perché è ritenuto pericoloso, sia anche per evitare magari che sia tentato da suicidio, anche perché appunto sapendo tutte queste cose è un testimone prezioso. Grazie intanto a Marco Mussanè da Parigi. Ciao Marco. Ciao. Ora, ancora tra i vostri messaggi, leggo questo lunghissimo WhatsApp, cerco di sintetizzarlo, vi ricordo che il numero è 349-238-6666 e poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, dice: per non dimenticare, a proposito di Trump, facciamo un po' di memoria, ecco quattro delle cose che ha dichiarato Donald Trump: chiudere internet per fermare l'arruolamento dei terroristi, poi una fonte estremamente credibile ha chiamato il mio ufficio, dice Trump, per dirmi che il certificato di nascita di Barack Obama è falso, e dice poi una volta pubblicò questo tweet: se Hillary Clinton non riesce nemmeno a soddisfare il suo uomo, cosa le fa pensare di poter soddisfare l'America? Insomma, dice questo ascoltatore, ve lo descrivo in alcune delle sue dichiarazioni. Fabio da Firenze scrive: Trump ci porterà alla terza guerra mondiale. Francesco dice: vincerà Trump, purtroppo lui rappresenta la vera America. Continuate le vostre riflessioni, ci sentiamo tra pochissimo. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Dall'8 al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte, perché so veramente da ogni latitudine arrivano i vostri messaggi. Continuate anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, che è il numero per gli SMS e i WhatsApp, a proposito della possibile eventuale vittoria di Trump alla Casa Bianca e di quali scenari, di quali conseguenze positive o negative questo evento potrebbe avere secondo voi. Leggo ancora dei messaggi. Marco dice: credo che i militari americani e tutti i pazzi in giro per il mondo avranno almeno 5 anni per allietarci con droni, attentati, colpi di stato vari, insomma, dalla padella alla brace. Ilaria dice: a me sembra ancora impossibile che vinca le primarie, oggi si parlava di un boicottaggio, speriamo, dice Ilaria. Pietro: credo che l'elezione eventuale di Donald Trump alla Casa Bianca abbia diretti effetti sull'Europa, sia per le politiche in materia di immigrazione che per direttive di intelligence e strategie di partnership per quella che l'anno prossimo sarà la nuova polizia europea. Marco scrive: io penso che Trump, una volta sceso al trono, dovrà dotarsi di persone intelligenti per consigliarlo, anche lui obiettivamente non è in grado, non sarà quindi lui a governare e quelli di cui si circonderà sarà sicuramente meglio di lui, non mi preoccuperei più di tanto anche il Nobel Obama non si è tirato indietro con le guerre, non cambia niente, dice questo ascoltatore. Valentino da Padova dice: penso che Trump abbia una reale possibilità di vincere qualora sia in grado di portare alle urne un elettorato a suo favore che generalmente non vota, in caso contrario Hillary avrà la vittoria assicurata. Emanuele: Trump ha promesso un disgelo con la Russia rispetto alla sovranità siriana e il disimpegno della NATO. C'è qualcuno che ha dubbi sul fatto che sarebbe di gran lunga un presidente migliore di quella guerra fondaia fanatica della Clinton? Scrive Emanuele: ognuno con la propria posizione, tra pochissimo ne parleremo. Vi ricordo, prima, se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie principali. Immigrazione: l'Austria annuncia il piano anti-immigrati al Brennero e vuole controlli anche in Italia. Domani vertice fra i ministri degli interni, ma l'Italia accusa Vienna di violare le regole europee. Grecia: tornano le tensioni sul debito greco, no di Berlino al vertice straordinario chiesto da Atene. Primarie americane, ne parleremo a momenti. Salah estradato in Francia, primo interrogatorio rimandato per l'attentatore di Parigi perché è stanco, il suo avvocato dice, all'intelligenza di un posacenere vuoto. Rai: via libera il canone in bolletta, lo ha deciso il Consiglio di Stato. Allarme del Consiglio d'Europa: nel vecchio continente si è assistito a un deterioramento della libertà di stampa ed espressione dell'efficienza, imparzialità e indipendenza della giustizia. Sport: ufficiale, Federica Pellegrini sarà la portabandiera italiana alle Olimpiadi di Rio. Occupiamoci quindi delle presidenziali americane. Dopo il risultato dell'ultimo super martedì, ieri, delle primarie americane, il repubblicano Donald Trump prende tutto, si autodefinisce il presunto candidato. Hillary Clinton, dalla parte democratica, non fa l'amplè, ma quasi, 4 stati su 5, e dal palco della vittoria a Filadelfia lancia l'appello all'unità del partito e la sfida al tycoon di New York. Deve prima passare anche il test, naturalmente, tutti e due della California, ma insomma la partita è più o meno fatta. Ma quella che a molti può apparire sorprendente è proprio questo progressivo trionfo di Donald Trump, del miliardario americano, un trionfo che nemmeno il partito repubblicano si aspettava e probabilmente neanche voleva, come si è visto nelle varie tappe. Trump sfida Hillary Clinton e con parole pesanti dice: Hillary sarebbe un presidente disastroso. E poi è protetta dal Partito Democratico anche se accusata di un comportamento criminale per la storia delle mail riservate. Ma guardate, dice Trump, posso battere Hillary facilmente, molto più facilmente di quanto abbia fatto con i concorrenti repubblicani. E poi rincara la dose, dice: se Hillary fosse un uomo non prenderebbe più del 5%. Ne parliamo con Marco Cacciotto, docente di Political Marketing and Public Affairs all'Università degli Studi di Milano ed esperto di politica americana. Buonasera Cacciotto. Buonasera. Trump ha anche detto, ho visto dichiarazioni poco fa, l'ISIS con me se fossi presidente ha i giorni contati, e dice: se sarò eletto presidente saprò arginare l'Islam radicale. Insomma, al di là delle possibili, qualcuno dice sparate o non sparate di Trump, ci spiega a cosa è dovuto questo così grande successo che appunto neanche il Partito Repubblicano si aspettava? Sì, il Partito Repubblicano non si aspettava che fosse così forte la polarizzazione anche nel proprio elettorato. In questo momento c'è un sentimento antipolitica, anticasta, anticlasse politica molto forte anche negli Stati Uniti, soprattutto una parte della popolazione che, nonostante la ripresa economica, si vede impoverita. E quindi sta riversando una certa rabbia nei confronti della politica. Però non bisogna confondere l'elettorato delle primarie con l'elettorato generale. In questo momento si stanno facendo una serie di considerazioni che non tengono conto di quanto sia diverso l'elettorato che sta andando a votare rispetto a quello che voterà nelle elezioni di novembre. Nel senso che potrebbero esserci sorprese, Cacciotto? Nel senso che noi abbiamo due candidati, ormai uno sicuro, Hillary Clinton, e l'altro molto probabile, Trump, che in realtà non sono particolarmente amati. Cioè, Trump è amato da un quarto degli americani, Hillary Clinton da un terzo degli americani, nella maggior parte, nella media dei sondaggi. Qui sono due candidati in realtà non molto forti, un elettorato mai, che è mai stato nel dopoguerra così polarizzato tra conservatori e liberal, però il contesto, ammesso che non ci siano clamorosi attentati o questioni di sicurezza, di terrorismo, in realtà è favorevole ai democratici, è favorevole a Hillary Clinton, soprattutto se Hillary Clinton avrà l'intelligenza di chiedere aiuto a Barack Obama, che finisce la presidenza con un'approvazione superiore al 50%. E in che modo potrebbe chiedergli aiuto? Il sostegno mi sembra che già ci sia, no, da parte di Obama. Sì, c'è, ma diciamo che Obama non è ancora entrato con forza nel dibattito, probabilmente con un Trump che incomincerà, come ha già fatto, ad alzare i toni e porterà a un dibattito molto forte tra democratici e repubblicani, e Obama dall'alto, diciamo, in questo momento deve essere il politico più popolare negli Stati Uniti su alcuni temi come immigrazione, sanità, politica estera, potrà dire la sua e intervenire. Trump rischia logicamente di polarizzare, questo sulle primarie funziona, nelle elezioni generali per lui potrebbe essere in realtà un problema, perché non dimentichiamo che il Partito Repubblicano arriverà alla convention molto diviso, e non è detto che non perda un pezzo dell'elettorato che assolutamente non digerisce un candidato come Trump. Comunque affascinanti queste primarie, questo percorso fino alle presidenziali, avremo tempo ancora di riparlarne, di fare varie analisi e anche di vedere, insomma, se ci fossero mai dei colpi di scena. Grazie professor Marco Cacciotto. Prego. Grazie, prego. Buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Trump vince perché parla come mangia, dice un ascoltatore, Tugnoli sarà il cognome. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre riflessioni su Trump e un'eventuale vittoria. Adesso vi ricordo invece quali sono le notizie più importanti, molto velocemente, appunto le primarie americane con il trionfo nel super martedì sia di Hillary Clinton per quanto riguarda i democratici e di Trump per i repubblicani, e adesso manca il test decisivo della California. E Vienna, il Brennero vuole controlli anche dall'Italia, l'alto là di Renzi. Intanto il Parlamento austriaco ha inasprito la legge sulla richiesta d'asilo. Prescrizione, il tema della giustizia, il governo cerca l'intesa, il ministro Orlando dice sono ottimista. E poi no di Berlino al vertice straordinario chiesto dalla Grecia sul debito pubblico e gli aiuti ad Atene. Salvini che dice Renzi ricatta Berlusconi attraverso le sue aziende, per questo che non molla Bertolaso, dice Salvini che Berlusconi lavora per favorire Renzi a Roma. E poi Salah Abdeslam, il terrorista di Parigi, estradato in Francia, fa sapere che vuole parlare e il suo avvocato belga dice all'intelligenza di un posacenere vuoto. Europa 24 notte. Caso Regeni, tutti uniti per chiedere la verità sul caso gli europarlamentari, ma sulle misure nei confronti dell'Egitto ci sono molti distinguo. No iniziative che incidano negativamente sui rapporti con l'Egitto, tantomeno a una rottura, sostengono gli europarlamentari del Partito Popolare Europeo, mentre un centinaio di europarlamentari appartenenti a vari gruppi politici e a vari paesi hanno inviato un appello all'alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini affinché si compiano passi più decisivi e si arriva a dichiarare l'Egitto paese non sicuro. Tutti uniti per chiedere la verità sulla morte di Giulio Regeni, gli europarlamentari, soprattutto italiani, si mobilitano sul caso del ricercatore friulano scomparso al Cairo il 25 gennaio e trovato morto dopo 8 giorni. A marzo la plenaria di Strasburgo cominciò a muoversi con una risoluzione trasversale, poi c'è stato un incontro con una delegazione parlamentare egiziana e pochi giorni fa un sit-in da parte di esponenti di diverse famiglie politiche nel cortile del Parlamento europeo, mentre si moltiplicano gli appelli, soprattutto nelle ultime ore. Ci sono però alcuni distinguo: c'è chi invoca la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Egitto, chi invece considera prioritario mantenerle affinché si possa davvero fare piena luce sul caso. L'ultima iniziativa, lunedì, una lettera all'alto rappresentante per la politica estera Mogherini da parte di 91 europarlamentari di 6 gruppi politici e di 17 paesi. Silvia Costa, responsabile Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Oltre a quella risoluzione, che comunque ha avuto un grande valore perché il caso Regeni non è più un caso solo italiano ma europeo, abbiamo mandato una lettera molto incisiva nella quale arriviamo a chiedere qualcosa di molto più forte, e cioè che si possa valutare l'opportunità che l'Egitto venga dichiarato paese in questo momento non sicuro, invitando quindi i cittadini europei a non recarsi in questo paese finché non ci sarà perlomeno una concreta volontà del governo di fare luce. Questo è un atto piuttosto forte, alcuni hanno anche esitato a firmare una cosa così forte, perché è chiaro che le relazioni con l'Egitto sono importanti per l'Europa, ma è per dire che questa è intollerabile il comportamento del governo. Nessuna inimicizia col popolo egiziano, molta invece severità anche da parte dell'Europa nei confronti del governo egiziano. Questo potrebbe essere un primo passo forte, come diceva sì, giustamente lei, ma qualcuno parla e invoca anche l'interruzione delle relazioni diplomatiche. Di fronte a questa evoluzione antidemocratica e repressiva, lui stesso è a chiedere che si valuti da parte dell'Italia l'interruzione delle relazioni diplomatiche, e penso che a questo punto sia una cosa da minacciare con molta fermezza. Ma come si diceva, non tutti gli europarlamentari concordano e non tutti hanno firmato la lettera inviata a Federica Mogherini. Massimiliano Salini, europarlamentare del Partito Popolare Europeo. Non dimentichiamo che quello che oggi accade tra il Medio Oriente, il Nord Africa, eccetera, vede l'Egitto, al netto di questa tragedia, come un luogo di stabilizzazione istituzionale, un ambito dove le relazioni istituzionali fino ad ora sono andate bene, altrove no. Quindi andiamo fino in fondo su questa partita, ma tenendo conto di una strategia di politica estera, non di una azione-reazione istintiva. Quindi lei non sarebbe d'accordo con una rottura delle relazioni diplomatiche? No, no, le relazioni diplomatiche non si interrompono senza una approfondita, e l'approfondimento deve ancora completarsi, un'approfondita analisi di carattere politico complicatissimo, al termine della quale, non essendovi altra possibilità di chiarimento, si arriva anche all'estrema ratio. Quindi lei sicuramente non è tra i firmatari di questa lettera? Io non l'ho firmata perché non è certo facendo oggi petizioni per l'interruzione immediata dei rapporti con un paese che si contribuisce a togliere questa nebbia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso parliamo di Facebook, perché il garante della privacy per la prima volta si pronuncia sul colosso del web e dice che dovrà comunicare al proprio utente tutti i dati che lo riguardano, e inoltre dovrà bloccare i profili falsi ai fini di un eventuale intervento da parte della magistratura. Ci facciamo un po' chiarire le idee da Giuseppe Busia, segretario generale dell'autorità garante della privacy. Buonasera Busia. Buonasera. Allora, in cosa consiste questo vostro intervento? Il caso era di una persona che si era vista prima, come dire, da una persona che si era finta altri, chiedere un'amicizia, era intervenuto alla corrispondenza, poi era stato ricattato, non aveva accettato il ricatto ed era stato creato un profilo a suo nome. Noi abbiamo detto che da un lato, ed è una cosa importante, si applica il diritto nazionale, per cui Facebook deve applicare le regole sulla protezione dei dati personali che sono in Italia. Seconda cosa, deve riconoscere da un lato i vari diritti, quindi l'accesso ai dati della persona, eventuali rettifiche, via dicendo, senza nascondersi dietro altri profili. E terza cosa, nel caso del fake, cioè del profilo falso, noi non abbiamo ritenuto di chiedere la cancellazione dei dati perché questi dati potevano essere utili alla magistratura, ma abbiamo detto che deve bloccare, evitare ogni ulteriore trattamento, salvo la conservazione ai fini appunto dell'eventuale acquisizione da parte della magistratura. Busia, ma se io non so che ho un profilo falso, Facebook deve automaticamente individuarlo, oppure deve essere su mia richiesta personale? No, naturalmente c'è la richiesta. Il caso di specie, il profilo falso era stato creato proprio a seguito di un ricatto, perché una persona aveva finto un'amicizia, era iniziata, come dicevo, una corrispondenza confidenziale, e poi per ricattare la persona aveva creato il profilo falso, aveva inserito delle foto compromettenti, e quindi la persona era ben consapevole. La tutela che era stata data nella prima richiesta che c'era stata da parte di Facebook era insufficiente, e allora è intervenuto il garante. Ma i dati poi vengono cancellati, quelli che mi riguardano, oppure finché sono in attesa di giudizio della magistratura rimangono visibili? Non sono visibili, la cosa importante è che non sono visibili, non devono essere diffusi, vengono solo conservati, perché a fini di prova di questo ricatto e di questa truffa che la persona, o tentativo anche di estorsione che la persona aveva subito, questi dati non devono essere cancellati, proprio perché possono essere acquisiti in un processo e servire a tutela del singolo per difendersi o per far valere i suoi diritti, però non sono più visibili, e quindi la pronuncia del garante garantisce piena tutela, equivale alla cancellazione, salvo che, diciamo, i dati possono essere utilizzati, certo, in giudizio e quindi acquisiti. Grazie Giuseppe Busia, segretario generale dell'autorità garante della privacy, ora è tutto più chiaro. Grazie a voi. Grazie Busia. E noi ci sentiamo a questo punto alle 22, sì, e ringrazio anche chi dice che mi ascolta tra le lenzuola di flanella.